Buona serata, il benvenuto su Rock FM dalla voce di Marco Gravelli, primo appuntamento della settimana, lunedì, replicato poi il mercoledì. Questo è lo spazio di Hard & Heavy con novità, interviste e proposte dal passato, dal mondo dell'hard rock e dell'heavy metal. Vi viene offerto sera dopo sera, dalle 20 alle 21, dal lunedì al venerdì, da Mariposa Dischi, Corso Lodi al numero 1, qua a Milano, condotto dalla voce di Marco Gravelli, con tutti i testi proposti, preparati dal nostro Simone. Il nostro primo prodotto risale al passato, una band storica che arriverà in Italia per due date, il 2 di novembre al New Age di Roncade Treviso e il 3 novembre al Music Drum, che è l'ex Transylvania Live, qua a Milano. Sto parlando della celebre band americana degli Skid Row. Lo scorso anno hanno celebrato il 20° anniversario dalla loro nascita. Il gruppo nasce in effetti nel 1986 grazie al chitarrista Sabo, al bassista Bolan, ultimo ad entrare in formazione, forse il più celebre di tutti, cioè il cantante Sebastian Bach, il cui vero cognome è Björk, Sebastian Björk. L'omonimo album d'esordio arriva nell'89 e fu subito un successo che gli valse diversi tour mondiali. Successo bissato anche con Slave to the Grind del 91. In seguito poi all'arrivo della musica grunge cala la popolarità anche a causa del terzo album Subhuman Race del 1995, che non andò molto bene. Due anni dopo la band si scioglie per divergenze musicali tra Sebastian e il resto del gruppo. Gli Skid Row si riformano nel 99 con un nuovo cantante, si chiama Johnny Solinger, ed un nuovo batterista, ed escono nel 2003 con un nuovo album. L'ultimo in studio si intitola Revolution 4 Minute ed è uscito lo scorso anno. Noi li andiamo a proporre con questo grande hit, You've Gone Wild, Skid Row. Another burned out town. I never played by the rules. decisamente il loro cavallo di battaglia, questa You've Gone Wild, per la formazione degli Skid Row, con i quali abbiamo aperto il primo appuntamento della settimana di Hard and Heavy. Andiamo ad una band da culto, una band di cui è uscito solo un album, una band che ha pubblicato questo lavoro negli anni 80, seconda metà degli anni 80. Loro si chiamavano Sacred Blade. L'album si intitola Odd Sun Plus Moon, ristampato comunque in CD per coloro che volessero trovarlo, in versione rimasterizzata. Una delle curiosità è che la rivista famosissima Rock Hard lo ha inserito tra i 300 album metal più belli di tutti i tempi. Ripeto, si intitola Odd Sun Plus Moon, il gruppo sono i Sacred Blade, nati da Canada, esattamente dalla città di Vancouver, composti da quattro elementi. Sono praticamente sconosciuti ai più, ma per il genere, come vi dicevo, una band culto, poiché un solo album alle spalle, nonostante tutto, si sono creati veramente un alone di notorietà. Nati nel 1981 grazie al cantante chitarrista Jeff Ulmer e dal secondo chitarrista Will Ruskan, i Sacred Blade godevano di una certa notorietà nell'underground canadese grazie a due demo e parteciparono anche alla compilation Metal Massacre, esattamente nel volume 4. Suonarono così di spalla Exodus Raven, oltre a sostituire i Metallica in una data a Seattle. Questo loro album di debutto, come vi dicevo, esce nell'86 ed è l'unico album. Ottenne ottime recensioni, si segnalò come il secondo album più venduto dell'etichetta, cioè la Black Dragon. Nell'89 cominciarono in effetti a registrare il secondo album, ma purtroppo si rovinarono i master del lavoro, lavoro che non fu più portato a termine. La band si sciolse, il leader Jeff Ulmer e il batterista Ted hanno ora creato una nuova formazione con i quali hanno pubblicato un album due anni fa, chiamate, il gruppo si chiama Other World. Noi comunque andiamo a proporli proprio da questo unico album of the Sun Plus Moon, ripeto, ristampato anche in CD. Il pezzo si intitola Fills the Sun Shrine. Sono i Sacred Blade. Decisamente un ottimo lavoro questo Of the Sun Plus Moon per i Sacred Blade. Era Fields, The Sunshine, il pezzo che vi ho proposto dal loro unico vinile, il loro unico album Of the Sun Plus Moon. Andiamo invece indietro a qualche mese fa, andiamo in Italia, esattamente dalla cittadina di Gallarate, da dove provengono questi Doom Sword, ottima epic metal band italiana che gode anche di una certa notorietà nell'underground e che suonerà il 27 ottobre al Music Drome di Milano insieme ad un altro ottimo gruppo del genere italiano, cioè i Votan. Un concerto da non perdere per gli amanti dell'epic metal. Questo loro My Name We Live On è il loro ultimo album, uscito a fine giugno. È un ottimo lavoro, è il quarto album di questa band, veramente ottimo. Oggi ve li propongo con Days of the High Adventure, si chiamano Doom's World. Sono italiani, propongono epic metal, ricordo il 27 ottobre al Music Drome di Milano con i Votan. My Name We Live On, album quarto della loro produzione, dal quale abbiamo ascoltato e proposto Days of the High Adventure, dalla band italiana appunto dei Doomsworld alla band olandese creata nel 1984 da Arjen Lucassen, cioè i Vengeance. Quindi torniamo indietro nel tempo, ma fino a un certo punto vi spiegherò perché. La band, appunto, abbiamo detto, è olandese, nasce nell'84. In principio si chiamavano Lynx, ma a causa di una omonimia con un gruppo già esistente viene cambiato appunto nell'attuale Vengeance. L'esordio risale all'84 con l'omonimo album. Dopo altri tre lavori nel 90 c'è il primo importante abbandono. Infatti lo storico cantante lascia il gruppo e il suo posto viene preso dall'esperto Ian Perry, noto successivamente per aver militato nella formazione degli Elegy. Nasce così nel 94 il quinto album, The Last of the Fallen Heroes. Nel 95 c'è un secondo importante abbandono, poiché il leader fondatore Lucassen lascia il gruppo ed in seguito si dedicherà a molti progetti solisti. L'ultimo album in studio è stato Back in the Ring, uscito nel 2006 tramite MTM Records. Per quanto riguarda la lineup, c'è il rientro in formazione del primissimo cantante Leon Goffey. Di futura pubblicazione, dato che uscirà il 23 di novembre, è questo lavoro che vi propongo, che non è nuovo perché alla fin fine contiene materiale edito, dato che è un live. Si intitola Same Same by Different, registrato durante i recenti show di supporto ai Sinner e a Axel Rudy Pell. Quindi andiamo un po' a proporre qualcosa di vecchio da un album live che deve addirittura ancora uscire, ripeto, 23 novembre. Vengeance, il pezzo si intitola Take Me to the Limit, è anche il titolo del loro terzo album in studio, uscito nel 1987. Take me to the limit. La formazione è quella olandese dei Vengeance. Il nuovo album dal vivo uscirà alla fine del prossimo mese. Invece questo è un pezzo, come tutto il materiale, già ben noto e conosciuto, titolo del loro terzo album. Altra band molto nota è quella svedese dei Candlemass, che il 16 settembre scorso hanno suonato qua a Milano. Nati nell'85 dalle ceneri dei Nemesis, creati dal bassista leader Leif Edling. Esordio sul mercato nell'86, ve l'abbiamo proposto con un brano, questo Epicus Domicus Metallicus, grande album con alla voce un session man, John Languish, che poi viene sostituito l'anno seguente nel secondo lavoro da Messiah Marco Ling, dotato di una voce potente e teatrale. Quindi l'album dell'87 che prenderemo in esame questa sera è Nightfall, che conferma il successo del precedente lavoro. Tutto funziona perfettamente anche per gli altri due album, fino a quando nel 92 Messiah viene allontanato dalla band. Il suo posto viene preso dal bravo vocalista Thomas Wikström, con il quale pubblicano il capitolo 6, che vede variare la proposta musicale a favore di un heavy metal più oscuro. La band si scioglie nel 93, nel 98 e nel 99 escono però due album nuovi con una nuovissima formazione, il cui unico membro originale era il fondatore Edling, una proposta musicale molto più vicina ai Black Sabbath. Arriviamo al 2002, avviene la prima reunion con la lineup classica per diverse date live, e nel 2004 però il gruppo si scioglie di nuovo. Dopo sei mesi la band si riforma, registra un album nuovo dall'omonimo titolo, che gli valse anche un contratto con la Nuclear Blast. Ottobre dello scorso anno, Messiah Marco Lin, mentre stanno registrando l'album nuovo, abbandona la band di nuovo. Il suo posto viene preso dall'americano Robert Love dei Solitude Eternus, con il quale quest'anno è uscito l'ottimo album in studio King of the Grey Island. Questa settimana verrà pubblicato l'atteso DVD dei Candlemass, quello del concerto che si è tenuto in Svezia in occasione del 20° anniversario della band, con tutti i vecchi cantanti del gruppo tranne Messiah Marcolin. Ci pensiamo noi comunque a riproporvelo con questo brano intitolato Samaritan dall'album Nightfall. Siamo nel 1987 dall'album Nightfall Candlemass. Alessia. Inizia così la seconda parte del nostro primo appuntamento della settimana, il terzo se seguite la replica di mercoledì con Arden Daly insieme a Marco Gravelli con la band svedese da Stoccolma degli House of Shakira, composta da 5 elementi, hanno alle spalle ben 4 album in studio, l'ultimo è stato First Class, uscito nel 2004. Questo nuovo si intitola Retoxed. Ricordo che il gruppo è formato nel 91, esordio però nel 97 con l'album Lint, ben accolto dalla critica, gli valse un tour di spalla ai famosi Royal Ant. Nel 2005 il bassista ha militato anche nei Royal Ant stessi. Questo nuovo album esce questa settimana, 11 tracce di buon hard rock, per lo più melodico, come questa No Faith, traccia numero 3 dell'album. Altro gruppo decisamente più noto uscirà il prossimo lunedì con questo Gambling with the Devil. Sto parlando dei tedeschi Halloween. Della formazione originale oggi sono rimasti in lineup il chitarrista Michael Waketh e il bassista Mark Groskopf. Alla voce c'è dal 94 l'ex Pink Cream 69 Andy Darris, alla seconda chitarra Sasha Gangster ex Freedom Call e alla batteria il sorprendente Daniel Loeb dei Rawhead Rex. Questo nuovo album sarà pubblicato dalla SPV Steam Hammer, presenta 11 tracce più un breve intro, è stato anticipato dal singolo che vi abbiamo già proposto, As Long As I Fall. Ricordo che gli Halloween suoneranno a Milano insieme a Gamma Ray ed Exis il 27 novembre, a Roma il 28, a Milano all'Alcatraz. Il pezzo che vi proponiamo da questo nuovo album si intitola Final Fortune Halloween. Un estratto dall'album che sarà nei negozi il prossimo weekend, Gambling with the Devil degli Halloween, questa era Final Fortune. Andiamo invece agli Astral Doors, formazione svedese praticamente, che esce con questo nuovo quarto album dal titolo New Revelation. Autori di un ottimo hard rock di ispirazione, hard rock e metal di ispirazione anni 80, nati nel 2002 dal chitarrista e dal batterista, dapprima come project band, poi sono diventati una band stabile, nel quale milita il bravissimo cantante Patrick Johansson, che assomiglia molto come timbrica vocale a quella di Ronnie James Dio, che già suona nei Lion's Share e nei danesi Thuring Heights. L'album d'esordio risale al 2004, il successivo fu Evil Is Forever, che li ha fatti emergere e notare nel panorama metal. Notorietà confermata con il terzo Astralism del 2006, che gli ha permesso di andare in tour con i Blind Guardian come spalla. Arrivarono anche qua a Milano lo scorso ottobre. Questo nuovo album è stato pubblicato dall'etichetta Locomotive Records, che li segue sin dall'esordio. La formazione non è mai cambiata, l'album presenta 11 tracce, gli è valso la partecipazione al celebre Prog Power Festival di Atlanta, oltre ad un tour da headliner che li porterà il prossimo 1 novembre al Black Horse di Cermenate, in provincia di Como. Come supporto ci saranno gli italiani Secret Sphere. Li andiamo a proporre, è un album molto bello, consigliato dal nostro Simone, quindi apponiamo il bollino di Arden Devi su questo New Revelation, nuovo album degli svedesi Astral Door. Il pezzo è la stessa canzone che dà il titolo album e che apre il lavoro, New Revelation. The rider came from far away to tell the story to the king. He was a saint. Shape. Here's the chase, victory will cross. Rage is a sin and we're all giving in. Uscirà il 19 di novembre un doppio DVD dal vivo per i Saxon dal titolo To Hell and Back Again. Sarà in formato 16 noni con audio 5.1. Stessa cosa per i Rush. Hanno registrato due concerti tenutisi in Olanda il 16 e il 17 ottobre per la pubblicazione di un prossimo DVD. E ricordiamo che domani sera saranno dal vivo al Dutch Forum di Assago Milano. Cage, la power metal band americana, pubblicherà anche loro un DVD. Pubblicheranno questo DVD live dal titolo Live in Switzerland, registrato durante il Festival Metal Days. Inoltre cambio di line-up con l'ingresso di un nuovo batterista, si tratta di Norm Leggio, proveniente dagli Psychotic Waltz. I Tristania hanno scelto la nuova cantante, questa è una metal band che arriva dalla Norvegia in seguito alla fuoriuscita della precedente Vibeke. Si tratta dell'italiana, italiana sarda, Mariangela De Murtas, 25enne. E chiudiamo con un'altra band italiana, ovvero sia i Macbeth. Gothic metal band milanese hanno realizzato il video del singolo Without You, che anticipa la pubblicazione del prossimo Super Angelic Hatebringers nei negozi il 16 di novembre. L'album verrà fatto ascoltare in anteprima questo sabato allo Zoe Club di Milano, con tanto di presentazione del video e meet and greet con la band. Noi abbiamo già a disposizione proprio il nuovo album, andiamo a proporre quello che è il singolo Without You. Sono i Macbeth. Love. In anteprima, in Hard and Heavy, una nuova produzione dei Macbeth italiani, album in uscita a novembre, presentato prossimamente questo sabato allo Zoe Club. Il brano Without You, il singolo da Super Angelicate Bringers. E andiamo praticamente in dirittura d'arrivo con la prossima ottima band tedesca, che sono i Jared Art. Uscito lo scorso weekend l'ottavo album in studio per una delle più importanti melodic hard rock band europee. Nati nel 1990 col nome di Tax, cambiato nell'attuale Jared Art in occasione dell'album di debutto del 94. Nel loro lungo curriculum ci sono da menzionare concerti di supporto a Glenn Hughes, Gotham, Axis, Heaven's Gate, e con il loro secondo album Slave and Master, rimasto nella top 10 giapponese, dove sono molto famosi per i dischi import, per ben 4 mesi. Il loro quarto album, Four, del 99, è considerato anche uno dei migliori lavori di melodic hard rock di tutto il mondo. Nel settembre 2004 il bravissimo cantante, compositore e fondatore Michael Borman, ex Bonfire, attualmente negli svedesi Blowdown, ha lasciato il gruppo per intraprendere la carriera solista e partecipare ad altri progetti. Al suo posto è stato reclutato il sorprendente Johan Falberg, proveniente dagli Scudiero. Nel corso degli anni ci sono stati diversi cambi di formazione, tanto che la line-up originale oggi vede presente soltanto il batterista e il bassista. Questo nuovo album si intitola Sinister Mind, vede l'ingresso anche del chitarrista Peter Ostros, proveniente dagli Insania, che ha partecipato alla composizione dei brani con ottimi risultati. L'album presenta 12 motivi molto ben prodotti e mixati dall'esperto di questo genere, Michael Foss dei Casanova, Chris Lusman, ex Bonfire, e che aveva già lavorato al precedente album, e il sempre più richiesto Dennis Ward dei Pink Cream 69. La band inoltre in questo mese ha intrapreso un tour di supporto agli inglesi UFO. Ebbene, arriviamo addirittura d'arrivo proponendovi il brano che apre questo Sinister Mind, che viene pubblicato dalla nostrana etichetta Frontiers Record. Ringrazio voi per avermi seguito, vi rimando all'appuntamento di domani sera. Un grazie al nostro autore Simone, nonché allo sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1, qua a Milano. Da Marco Gravelli è tutto, vi lascio con Hero da Sinister Mind per Jared Art. Ciao!